ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Venerdì 10 marzo 1944. Carissima Kitty, oggi sta bene il modo di dire le disgrazie non vengono mai sole. Peter lo diceva poco fa. Ti devo raccontare quello che ci è capitato e che forse ci aspetta. Tanto per cominciare, Miep ieri si è ammalata dopo il fidanzamento di Hank e Agie. Ha preso freddo nella Westerkerk, dove ha avuto luogo la cerimonia. Seconda cosa, il signor Kleiman non è ancora rientrato dopo l'ultima emorragia e quindi Bep è sola in ufficio. Terza cosa, un signore, di cui non faccio il nome, è stato arrestato dalla polizia. È grave non solo per la persona in questione, ma anche per noi, dato che attendiamo con ansia patate, burro e marmellata. Il signor M, lo chiamerò così, ha 5 figli sotto i 13 anni e il sesto sta per nascere. Ieri sera ci siamo un po' spaventati perché abbiamo sentito bussare sul muro. Stavamo cenando. Per il resto della serata siamo rimasti in preda alla tensione e al nervosismo. In questo periodo non ho proprio nessuna voglia di scrivere qui quello che succede. Mi interessano molto di più le mie esigenze personali. Non fraintendermi ora, perché mi dispiace moltissimo per il povero signor M, che è così buono, ma nel mio diario non c'è molto spazio per lui. Martedì, mercoledì e giovedì ero da Peter dalle 4:30 alle 5:15. Studiavamo francese e chiacchieravamo del più e del meno. Aspetto con impazienza quell'oretta del pomeriggio e la cosa più bella è che penso che anche a Peter piaccia che io vada da lui. Tua Anne-Marie Frank. Sabato 11 marzo 1944. Cara Kitty, in questo periodo non riesco più a stare ferma. Vado su e torno giù e poi torno su. Mi piace parlare con Peter, ma ho sempre paura di seccarlo. Mi ha raccontato diverse cose di prima, dei genitori e di sé, ma a me non basta mai e ogni 5 minuti mi chiedo come posso pretendere di più. Prima mi trovava insopportabile, è stato reciproco. Ora ho cambiato idea. Che abbia cambiato anche lui? Penso di sì. Ma questo non significa necessariamente che dobbiamo diventare grandi amici, anche se da parte mia renderebbe molto più piacevole la vita da rifugiati. Ma non voglio illudermi, mi occupo abbastanza di lui e non voglio annoiare anche te, perché devo ammetterlo, sono lamentosa. Giovedì 16 marzo 1944. Cara Kitty, il tempo è bellissimo, indescrivibilmente bello. Tra poco vado sicuramente in soffitta. Ora sì che so perché sono tanto più inquieta di Peter. Lui ha una sua stanza in cui lavora, sogna, pensa e dorme. Io vengo sballottata di qua e di là. Nella mia stanza non sono mai sola, anche se lo desidererei tanto. È il motivo per cui mi rifugio in soffitta. Lì e con te, per un momento, un brevissimo istante, riesco a essere me stessa. Ma non voglio lagnarmi elencando i miei desideri, anzi, voglio essere coraggiosa. Di sotto, per fortuna, non indovinano niente dei miei sentimenti segreti, a parte il fatto che divento ogni giorno più fredda e sprezzante nei confronti della mamma. Coccolo di meno il papà e anche con Margot non mi confido più, sono ermetica. Innanzitutto devo conservare la mia sicurezza esterna. Nessuno deve sapere che dentro di me sono tuttora in guerra. Una guerra tra desiderio e intelletto. Finora ha vinto il secondo, ma il primo non risulterà il più forte? A volte temo di sì e a volte lo desidero. È così spaventosamente difficile non poter confessare mai niente a Peter, ma so che deve essere lui a cominciare. È difficile fingere di giorno di non avere vissuto tutte le conversazioni e i gesti che vedo in sogno. Eh sì, Kitty, Anne è una ragazza molto strana, ma vivo anche in un tempo strano e in circostanze ancora più strane. La cosa più bella, tutto sommato, è che quello che provo e penso lo posso almeno scrivere, altrimenti soffocherei davvero. Che cosa ne penserà Peter di tutte queste cose? Spesso sento che prima o poi ne parleremo insieme. Deve aver indovinato qualcosa di me, perché non può voler bene all'Anne che finora conosce dall'esterno. Come può lui, che ama tanto la pace e la tranquillità, provare simpatia per la mia confusione e le mie attività frenetiche? Sarà il primo e l'unico al mondo ad aver guardato sotto la mia maschera di cemento? Riuscirà presto anche lui? Non c'è un vecchio detto secondo il quale l'amore spesso è conseguenza della compassione o i due sentimenti vanno mano nella mano? Non sarà anche il mio caso, perché provo per lui la stessa compassione che spesso provo per me. Proprio non so come trovare le prime parole e come farà lui poi, che ha ancora molta più difficoltà a parlare. Se solo potessi scrivergli, almeno saprei che sa che cosa volevo dire, perché le parole sono così tremendamente difficili. Tua Anne Marie Frank. Lunedì 20 marzo 1944. Cara Kitty, stamattina Peter mi ha chiesto se di sera vado da lui, perché non lo disturbo affatto e nella sua stanza c'è benissimo posto per due. Io gli ho detto che non posso ogni sera, visto che quelli di giù non sono d'accordo, ma secondo lui non ci devo badare. Allora gli ho detto che andrò volentieri da lui sabato sera e gli ho chiesto di avvertirmi soprattutto quando c'è la luna. «Allora scendiamo di sotto», ha detto lui, «per guardare la luna. A me va benissimo e tutto sommato non ho poi tanta paura dei ladri». Nel frattempo sulla mia felicità è calata un'ombra. Già da tempo sospettavo che a Margot Peter piacesse parecchio. Non so quanto le piaccia, ma mi secca molto. Ogni volta che vedo Peter adesso, evidentemente lei soffre, ma il bello è che non lo dà vedere. So bene che io impazzirei di gelosia, ma Margot mi dice solo che non la devo compatire. Mi fa uno strano effetto che tu debba essere il terzo incomodo, ho aggiunto. Ci sono abituata, ha risposto lei con una punta di amarezza. Questo non oso raccontarlo a Peter, forse in seguito. Prima dobbiamo dirci ancora un sacco di cose. Ieri sera la mamma mi ha dato uno scappellotto, che però mi ero meritata. Non devo esagerare nell'indifferenza e nel disprezzo verso di lei. Proverò, nonostante tutto, a tornare a essere gentile e a lasciare da parte le mie critiche. Anche Pim non è più così affettuoso. Cerca di non trattarmi più come una bambina e adesso è diventato troppo freddo. Vediamo come va a finire. Mi ha minacciato che se non studio l'algebra, dopo non potrò ricevere ripetizioni. Potrei aspettare e vedere come si mette. E riprenderò non appena avrò un libro nuovo. Per ora basta. Non vedo che Peter e non ho spazio per nient'altro. Tua Anne Marie Frank. Mercoledì 22 marzo 1944. Cara Kitty, qui è sempre più bello. Penso che forse nell'alloggio segreto sboccerò un vero grande amore. Tutte quelle battute sul fatto che mi sposerò con Peter se resteremo qui ancora a lungo non erano poi tanto assurde. Non ci penso neanche a sposarmelo, sai. Non so come sarà ad adulto e non so nemmeno se ci vogliamo così bene da volerci sposare. Nel frattempo mi sono convinta che anche Peter mi vuole bene, ma non so in che modo. Non riesco ancora a capire se desidera solo un buon compagno, se lo attiro come ragazza oppure come sorella. Quando mi ha detto che lo aiuto sempre negli scontri coi suoi genitori, ero molto contenta e già un po' più convinta della sua amicizia. Ieri allora gli ho chiesto che cosa farebbe se qui ci fosse una dozzina di Anne che andassero sempre da lui. La risposta è stata: se fossero tutte come te non sarebbe affatto grave. È molto ospitale con me e credo davvero che sia contento quando mi vede arrivare. Intanto studia molto francese, addirittura a letto fino alle 10:15. Durante tutta la serata ero così inquieta che continuavo ad andare in bagno, mi lavavo la faccia con l'acqua fredda, leggevo un po', tornavo a sognare, guardavo l'ora e aspettavo. Aspettavo e aspettavo, tendendo l'orecchio per sentirlo. Sono andata a letto presto, che ero stravolta. Questa sera devo fare il bagno e domani è così lontano. Tua Anne Marie Frank. Giovedì 23 marzo 1944. Cara Kitty, qui tutto ha un po' ripreso ad andare bene. I nostri fornitori di buoni sono usciti di prigione, per fortuna. Ieri è tornata Miep. Oggi suo marito si è messo a letto, brividi e febbre, i soliti sintomi dell'influenza. Beb sta meglio, anche se continua a tossire. Kleiman dovrà stare a casa ancora a lungo. Ieri qui è precipitato un aereo. Gli occupanti si sono buttati fuori in tempo col paracadute. L'apparecchio è finito su una scuola in cui non c'erano bambini. Bilancio dell'incidente: un piccolo incendio e un paio di morti. I tedeschi sparavano da matti sugli aviatori che scendevano. I cittadini di Amsterdam che stavano a guardare fremevano di rabbia per un gesto così vile. Anche noi, e cioè le signore, ci siamo spaventate a morte. Brrr, sparare è davvero orribile. Ma parliamo di me. Ieri, mentre ero da Peter, non so come è venuto fuori l'argomento delle questioni sessuali. Avevo già in mente da tempo di chiedergli alcune cose. Lui sa tutto. Quando gli ho detto che io e Margot non eravamo state affatto ben informate, ci è rimasto di stucco. Gli ho parlato molto di Margot e di me, di mamma e papà, e ho confessato che ultimamente non oso più fare domande. Allora lui si è offerto di spiegarmi e io ho accettato con gratitudine. Mi ha spiegato come funzionano i metodi anticoncezionali e io, senza peli sulla lingua, gli ho chiesto come facciano i ragazzi a capire che sono diventati adulti. Ci doveva pensare un momento, me l'avrebbe spiegato di sera. Tra le altre cose, gli ho raccontato quella storia di Jack e che le ragazze davanti ai ragazzi forti sono indifese. Beh, di me non devi proprio aver paura, mi ha assicurato. Di sera, quando sono tornata da lui, mi ha dato quella risposta. Certo, era un po' imbarazzante, ma mi è piaciuto un sacco poterne parlare con lui. Entrambi non riusciamo a immaginare di poter parlare con un'altra ragazza o rispettivamente un ragazzo di queste faccende così intime. Ora penso di sapere tutto. Lunedì 27 marzo 1944. Cara Kitty, in realtà la politica è un argomento molto importante nella nostra vita clandestina, ma visto che personalmente non me ne occupo tanto, troppo spesso l'ho trascurato. Per questo oggi voglio dedicare una lettera intera alla politica. Che ci siano molte opinioni diverse su questo punto è ovvio, che nei difficili tempi di guerra se ne parli molto è ancora più ovvio, ma che si litighi tanto per questo è semplicemente stupido. Che scommettano, ridano, imprechino e brontolino pure, facciano quello che gli pare e si cuociano nel loro brodo, ma che per carità non bisticcino, perché di solito le conseguenze non sono positive. Le persone che vengono da fuori portano molte notizie sbagliate. La nostra radio, in verità, non ha ancora mai mentito. Jan, Miep, Kleiman, Bepp e Kugler sono sempre up and down nelle loro idee politiche, Jan meno degli altri. Qui, nell'alloggio segreto, per quanto riguarda la politica, l'umore è sempre lo stesso. Nelle infinite discussioni riguardo l'invasione, i bombardamenti aerei, i discorsi, eccetera, eccetera, si sentono volare esclamazioni come «Unmöglich», «Um Gottes Willen», «Impossibile», «Per l'amor di Dio, se cominciano appena adesso come andrà a finire? Va Oistischend, bene, benissimo!» Gli ottimisti e i pessimisti, per non parlare dei realisti, affermano instancabilmente la propria opinione e, come in tutte le cose, ognuno ritiene di essere l'unico ad avere ragione. Una certa signora si arrabbia perché il suo signor marito ripone una cieca fiducia negli inglesi e un certo signore aggredisce la sua signora a causa delle osservazioni noiose e sprezzanti sul paese che lui ama. dalla mattina alla sera, e il bello è che non si annoiano mai. Ho avuto un'idea che ha effetti prodigiosi, è come far saltare qualcuno pungendolo con uno spillo. Proprio così funziona il mio sistema. Si parla di politica, si fa una domanda, si dice una frase o una parola e subito tutta la famiglia è in subbuglio. Come se i bollettini della Wehrmacht tedeschi e la BBC non bastassero, da qualche tempo è stata istituita anche la Luftlagemeldung, davvero fantastico, ma spesso il rovescio della medaglia è alquanto deludente. Gli inglesi parlano continuamente di aerei, si possono solo paragonare alle bugie dei tedeschi, che sono tali e quali. Dunque la radio è già accesa alle 8 di mattina, se non prima, e viene ascoltata ogni ora fino alle 9 di sera, alle 10, spesso fino alle 11. È la prova più lampante che gli adulti hanno pazienza e cervello difficilmente comprensibili. Alcuni, ovviamente, non voglio offendere nessuno. Noi ne avremmo abbastanza dopo uno, al massimo due bollettini, ma quei vecchi orsi, come dicevo, Arbeiter Program, Radio Orange, Frank Phillips o Sua Maestà la Regina Guglielmina, uno alla volta viene il turno di tutti e c'è sempre un orecchio disposto ad ascoltare, e se non mangiano e non dormono, ascoltano la radio e parlano di mangiare, di dormire e di politica. Uff, una barba tremenda, c'è da stare attenti che se no si diventa noiosi come vecchie zitelle. I vecchi sotto questo aspetto non hanno più molto da perdere. Come esempio basti citare il discorso del nostro adorato Winston Churchill. Domenica sera, ore 9. Il tè in tavola, sotto la cuffia scaldateiera, entrano gli ospiti. Dussel vicino alla radio a sinistra. Il signor Van Dan davanti. Peter di fianco. Mamma vicino a Van Dan. La signora dietro. Io e Margot in fondo e Pim a tavola. Noto di non aver spiegato bene come siamo seduti, ma in fin dei conti non ha poi molta importanza. I signori mandano boccate di fumo, gli occhi di Peter si chiudono per lo sforzo di ascoltare, mamma indossa una lunga vestaglia scura e la signora trema per la paura degli aerei, a cui non gliene importa niente del discorso, e proseguono allegramente il volo per Essen. Papà sorseggia rumorosamente il tè e Margot e io siamo fraternamente unite da Muschi, che occupa due ginocchia di persone diverse. Margot ha i bigodini in testa. Io ho addosso un pigiama che mi è piccolo, stretto e corto. Sembra una scenetta intima, simpatica, pacifica, e per questa volta lo è, ma aspetto con ansia le conseguenze del discorso. Sono impazienti, sgambettano. Non ci sarà un nuovo litigio? Si stuzzicano come un gatto che attira un topo fuori dalla sua tana. Tua Anne. Mercoledì 29 marzo 1944. Cara Kitty, ieri sera per Radio Orange ha parlato il ministro Bolkestein e ha detto che alla fine della guerra sarà fatta una raccolta di diari e lettere di questa guerra. Naturalmente tutti si sono buttati sul mio diario. Pensa quanto sarebbe interessante se pubblicassi un romanzo sull'alloggio segreto. Già dal titolo la gente penserebbe che si tratti di un giallo. Scherzi a parte. Una decina d'anni dopo la guerra sarà divertente sentire come noi ebrei abbiamo vissuto, mangiato e parlato qui. Anche se ti racconto molte cose di noi, tu non conosci che una piccola parte della nostra vita. Per esempio, quanta paura hanno le signore durante i bombardamenti come quello di domenica, quando 350 apparecchi inglesi hanno sganciato 500.000 di chili di bombe su Heimuden, come tremano le case, quasi fossero fuscelli al vento, e le epidemie che imperversano. Di tutte queste cose tu non ne sai niente e dovrei stare tutto il giorno a scrivere per poterti raccontare ogni particolare. La gente fa la fila per comprare la verdura e un sacco di altri articoli. I dottori non possono arrivare dai malati perché rubano loro di continuo il mezzo di trasporto. Scassi e furti ce n'è in abbondanza, tanto che ci si chiede che cosa sia saltato in testa agli olandesi, che sono diventati così ladri. Bambini dagli 8 agli 11 anni spaccano le finestre delle case e rubano tutto quello che riescono a portare via. Nessuno osa lasciare la casa vuota per 5 minuti, perché se non ci sei ti portano via la roba. Ogni giorno sul giornale compaiono annunci in cui vengono offerte ricompense per la restituzione di macchine per scrivere, tappeti persiani, orologi elettrici, stoffe, eccetera. Gli orologi elettrici per strada e i telefoni pubblici vengono smontati fino all'ultimo filo. Lo stato d'animo della popolazione non può essere buono. Tutti hanno fame. La razione settimanale non basta per 2 giorni, tranne quella del surrogato di caffè. L'invasione si fa desiderare. Gli uomini devono andare in Germania. I bambini si ammalano o sono denutriti. Tutti hanno vestiti e scarpe che cadono a pezzi. Sul mercato nero una suola costa 7,50 fiorini, ma i ciabattini per lo più non accettano clienti o ti fanno aspettare per 4 mesi, e nel frattempo le scarpe spesso passano in cavalleria. C'è un fatto positivo, e cioè i sabotaggi contro le autorità si fanno sempre più frequenti man mano che la qualità del cibo peggiora e le misure contro il popolo diventano più severe. Il servizio di distribuzione, la polizia, gli impiegati, tutti o collaborano per aiutare i concittadini o fanno la spia e li mandano in prigione. Per fortuna solo una piccola percentuale dei cittadini sta dalla parte sbagliata. Tua Anne. Venerdì 31 marzo 1944. Cara Kitty, pensa che fa ancora abbastanza freddo, ma quasi tutti sono senza carbone già da circa un mese. Carino, eh? Il morale generale è tornato alto per il fronte russo, che è fantastico. Non ti scrivo molto sulla politica, ma non posso fare a meno di comunicarti a che punto sono. Sono vicinissimi al governatorato generale e in Romania sono arrivati al Prut. Sono vicini a Odessa e Tarnopol è accerchiata. Qui ogni sera si aspetta un comunicato speciale di Stalin. A Mosca sparano talmente tanto a salve che la città trema ogni giorno. Chissà, forse fingono che la guerra sia vicina o forse non conoscono un altro modo per dar sfogo alla loro felicità. Non lo so proprio. L'Ungheria è occupata dalle truppe tedesche. Lì ci sono ancora 1 milione di ebrei che adesso dovranno pagare anche loro. Qui niente di particolare. Oggi è il compleanno del signor Van Dan. Ha ricevuto 2 pacchetti di tabacco, caffè per una sola tazza che sua moglie aveva messo da parte, del punch al limone da Kugler, sardine da Miep, acqua di Colonia da noi, 2 rami di lillà e tulipani. Per non parlare di una torta ripiena di lamponi, un po' appiccicosa a causa della pessima qualità della farina e della mancata presenza del burro, ma egualmente buona. I pettegolezzi sul conto mio e di Peter si sono un po' fermati. Questa sera mi verrà a prendere. Carino, non trovi? Da solo si annoia da morire. Siamo ottimi amici. Stiamo spesso insieme e parliamo di tutti gli argomenti possibili. È così bello non doversi mai trattenere come dovrei fare con altri ragazzi quando ci troviamo su terreni precari. Per esempio, parlavamo di sangue e poi è venuto il discorso delle mestruazioni, eccetera. Trova che noi donne siamo molto forti a sopportare così bene la perdita di sangue. Trova forte anche me, chissà perché. La mia vita qui è migliorata. Molto migliorata. Dio non mi ha lasciato sola e non mi abbandonerà. Tua Anne Marie Frank. Mercoledì 5 aprile 1944. Carissima Kitty, per parecchio tempo mi sono chiesta per che cosa studio. La fine della guerra è così tremendamente lontana, così irreale, misteriosa e bella. Se in settembre la guerra non sarà ancora finita, non andrò più a scuola, perché non voglio essere indietro di 2 anni. I giorni scorsi erano fatti di Peter e nient'altro che Peter, sogni e pensieri, e sabato sera mi è venuta una tristezza terribile, davvero spaventosa. Mentre ero con Peter trattenevo le lacrime, poi con Vandana ridevo da matti per il punch al limone, ero allegra, eccitata, ma appena sono rimasta sola ho capito che dovevo sfogarmi. In camicia da notte mi sono lasciata scivolare per terra e ho prima recitato molto intensamente la mia lunga preghiera, poi ho pianto con la testa sulle braccia, le ginocchia raccolte, sul pavimento nudo, tutta raggomitolata. Con un forte singhiozzo sono tornata in me nella stanza e ho frenato le lacrime perché di là non mi dovevano sentire. Poi ho cominciato a farmi coraggio, ripetendo sempre «Devo, devo, devo». Tutta irrigidita per la posizione inconsueta, sono crollata contro la sponda del letto e ho continuato a combattere fino a quando, poco prima delle 10:30, me ne sono tornata a letto. Era passato. E adesso è passato tutto. Devo studiare per non restare ignorante, per andare avanti, per diventare giornalista, perché è quello che voglio. So di saper scrivere. Un paio di racconti sono carini. Le descrizioni dell'alloggio segreto sono umoristiche. Molte parti del mio diario funzionano, ma resta da vedere se ho veramente talento. Chi non scrive non può sapere quanto sia bello scrivere. In passato mi dispiaceva di non saper disegnare bene, ora invece sono super felice di saper almeno scrivere. E se non ho il talento di scrivere per giornali o libri, beh, potrò pur sempre scrivere solo per me. Ma voglio andare avanti. Non riesco a immaginare di vivere come la mamma, la signora Vandana e tutte quelle donne che fanno il loro mestiere e poi vengono dimenticate. Devo avere qualcosa, oltre a un marito e dei figli, a cui dedicarmi. Non voglio far la fine di gran parte della gente che non ha vissuto per uno scopo. Voglio essere utile o procurare gioia alle persone che vivono attorno a me, ma che lo stesso non mi conoscono. Voglio continuare a vivere anche dopo la morte. E per questo sono davvero grata a Dio di avermi fatta nascere, dandomi così la possibilità di svilupparmi e di scrivere, e dunque di esprimere quello che ho dentro. Scrivendo mi libero di qualsiasi cosa. Mi passa il malumore, mi si solleva il morale. Ma il problema fondamentale è: riuscirò mai a scrivere qualcosa di grande? Sarò mai una giornalista e scrittrice? Lo spero, lo spero tanto. Perché scrivendo riesco a fissare tutto sulla carta, i pensieri, gli ideali e le fantasie. E allora tiriamo avanti, con rinnovato coraggio. Ci riuscirò, perché voglio scrivere. Tua Anne Marie Frank. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.